Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito dalla borsa perché vorrei dare un aggiornamento sull'andamento dei titoli bancari. Ahimè, come capite, purtroppo quando lo diamo in apertura in questo modo le notizie non sono positive. Il Banco Popolare continua a perdere tantissimo, meno 9,21% in questo momento, e segue a pari ruota la Popolare di Milano, meno 7,10%. Sono le due banche che hanno annunciato, le uniche per ora, un percorso di integrazione, lo ricorderete, ne abbiamo parlato molte volte, eppure insomma i titoli ormai sono, per quello che riguarda il Banco Popolare, a 4,39€, Pop Milano a 51 centesimi. Poi male anche Mediaset, sono i dati sulla perdita di Premium nel primo trimestre, ha perso 56 milioni di euro e le prospettive incerte sulla raccolta pubblicitaria portano Mediaset a perdere il 5%. Male anche altre banche, Unicredit meno 4,5%, Ubibanca meno 3,5%, Monte dei Paschi meno 2,40%. Poi c'è Anima Holding che perde il 4,70%, Luxottica il 3,60%. Positivo invece Moncler più 4,70, Leonardo Finmeccanica più 3,5, Prismian più 2,5, CNH più 1,50. Anche di questo parleremo con un approfondimento apposito, perché il Banco Popolare è arrivato a segnare un ribasso teorico, sospeso chiaramente in asta di volatilità, ma dicevo un ribasso teorico di quasi il 15%, portando a un certo momento anche la Popolare di Milano a perdere oltre il 10%. Ricordo che ieri sono usciti i dati del Banco Popolare, che ha chiuso il trimestre con una perdita di 314 milioni di euro, mentre ci si attendeva un utile a 41 milioni. Queste erano le attese degli analisti, e già qui si capisce il primo problema. I ricavi del Banco Popolare sono scesi del 18% a 786 milioni di euro, mentre gli accantonamenti, cioè i soldi messi da parte per far fronte a crediti in primo luogo non più esigibili, sono triplicati su richiesta della Banca Centrale Europea, che ha detto: attenzione, alla luce di quanto avete prestato e dei rischi che ci sono che non vi ritornino parte di questi soldi, dovete accantonare più fondi, quindi triplicati a 684 milioni. Sospesa oggi durante le contrattazioni anche la Cassa di Risparmio di Genova, che ieri ha diffuso i dati, ha chiuso il trimestre con un calo di 41 milioni di euro. Adesso sto cercando la variazione, non è tra le peggiori perché c'è il Credito Valtellinese che perde l'8%, che quindi è il secondo titolo bancario come calo dopo il Banco Popolare, e poi il terzo in assoluto è la Pop Milano, poi la Banca Intermobiliare meno 6%. Dicevo male anche la Cassa di Risparmio di Genova, che è arrivata a perdere oltre il 7%. Tutte le trimestrali hanno un po' deluso, Ubibanca, Unicredit, Popolare Emilia Romagna, Monte dei Paschi. Insomma, il problema qual è? Poi ne parleremo. Il ragionamento è sul capitale, e cioè, a parte Intesa San Paolo, perché bisognerà iniziare anche a fare qualche distinguo. Il mercato si sta interrogando, infatti Intesa San Paolo, per inciso, faccio notare che anche oggi, se non si è modificata, è quella che perde meno, perde il 2%. Il ragionamento è: con questi numeri toccherà aumentare il capitale anche per far fronte ai crediti deteriorati? Perché è un elemento negativo? Perché ovviamente dopo gli aumenti già fatti negli anni scorsi e con i chiari di luna che ci sono, l'idea che le banche rivadano sul mercato a chiedere soldi agli azionisti per aumentare il capitale, è un'idea che spaventa. Non ho detto gli indici, avete ragione, meno 1,5% Milano, meno 0,60 Parigi, meno 0,70 Francoforte, invariata Londra, e l'euro 1,14. Di questo parleremo, anche perché su questo è intervenuto anche il ministro Padoan, ha detto che il fondo Atlante potrebbe essere rafforzato. Dicevo, parleremo di banche, parleremo però anche oggi molto di infrastrutture e di turismo, per due motivi. Da un lato perché faremo il punto tra poco con il ministro delle infrastrutture e trasporti, a quasi un anno dal piano della logistica, quello che doveva rendere più integrate le attività degli aeroporti, dei porti, dei retroporti, il dragaggio dei porti, sembrano temi un po' tecnici, ma vi faccio notare che in questo momento ancora è più conveniente per le merci che arrivano da tutto il mondo andare a Rotterdam e prendere un treno per la Lombardia piuttosto che per il Veneto, Lombardia e Liguria e Piemonte soprattutto, che non sbarcare delle volte a Civitavecchia o a Genova, perché il tema non è tanto solo il collegamento ferroviario, è l'attività portuale, retroportuale, cioè quanto tempo ci metti a sdoganare queste merci. Per non parlare poi anche della parte ferroviaria, per cui se tu scarichi le merci a Gioia Tauro risparmi una settimana di navigazione, così come se la scarichi a Civitavecchia risparmi 5 giorni rispetto a Rotterdam, però poi da Gioia Tauro puoi arrivare a metterci 2 settimane per poi raggiungere il nord, tra sdoganamento e merci e quant'altro. E poi il tema anche degli aeroporti, dove c'è un piano di riordino complessivo, e il tema degli appalti. Perché dico che riguarda il turismo? Perché non è una novità e non è un mistero per nessuno che porti e aeroporti siano anche dei principali fronti di accesso dei turisti nel nostro paese. Ma parleremo di turismo anche perché è arrivata un'idea da un altro ministro, e mi riferisco al ministro Franceschini, ministro che ha la delega proprio sul turismo, di rimodulare, riorganizzare la qualità dei nostri, diciamo, alberghi, a partire dalla tassa di soggiorno. Che cosa ha detto Franceschini? Ha detto che serve una revisione della tassa di soggiorno, quella che tutti noi paghiamo quando stiamo in un albergo, che varia a seconda delle stelle dell'albergo. Praticamente bisogna uscire dal riferimento delle stelle agli alberghi, che sono un sistema datato e superato. Valgono, dice Franceschini, ormai molto di più i giudizi dei clienti sul web, che non ha detto solo TripAdvisor, però insomma uno dei principali è TripAdvisor. Non c'è solo quello, ci sono anche tutti i giudizi che uno becca su Google o su altri motori di ricerca. Questo insomma apre qualche dubbio, perché sappiamo che anche TripAdvisor non è esente da manipolazioni e insomma alterazioni. Ne parleremo con vari ospiti, perché questo poi non sfugge a nessuno, è un modo per affrontare il tema di come valutiamo i nostri alberghi, cioè tra Airbnb, l'offerta online, TripAdvisor, la categoria delle stelle, 2 stelle, 3 stelle, 4 stelle, è una categoria che ha sempre più difficoltà e rispecchia sempre meno il tipo di offerta che uno trova. Su questo va data ragione al ministro Franceschini. Poi sulla tassa di soggiorno io qualche dubbio ce l'ho a legarla anche ai giudizi degli utenti, perché non oso pensare che tipo di mercanteggiamento potrebbe iniziare. Ma che le stelle nel mondo di... cioè, io faccio una domanda a voi in ascolto e poi partiamo con la notizia in breve. Quando è l'ultima volta che non avete usato internet prima di andare in un ristorante o in un albergo? Quando è l'ultima volta che non l'avete usato? A dimostrazione di quanto ormai sia cambiato il modo in cui fruiamo dei servizi turistici. Ne parleremo più avanti, rapidamente le altre notizie in breve. E chiaramente scrivetelo al 349-238-6666 per gli sms o per WhatsApp, o se no sul sito di Radio 24 nella pagina dedicata a Focus Economia. Allora, poche le altre notizie in breve oggi. La Commissione Europea ha affermato e confermato di aver ricevuto la lettera inviata dal Ministro dell'Economia Padoan, italiano quindi, in cui si illustra la situazione del debito pubblico italiano, e poi lo scambio di dati e missive proseguirà anche nei prossimi giorni. Il ministro Padoan ha detto, proprio in riferimento alla lettera inviata alla Commissione Europea, siamo fiduciosi che gli elementi sul debito saranno tenuti nella dovuta considerazione dalla Commissione Europea. Nella lettera Padoan spiega proprio che l'Italia rispetta la regola che prevede fattori rilevanti che possono giustificare uno scostamento nell'andamento del debito pubblico rispetto a quanto previsto. Su questo, in sostanza, Padoan chiede alla Bruxelles di riconoscere la flessibilità. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono, e oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Le decisioni della Commissione europea sul rispetto del patto di stabilità da parte dei singoli stati sono attese tra una settimana. La data non è confermata ufficialmente, ma sembra che per mercoledì prossimo verrà finalmente formulato il giudizio sulla compatibilità dei conti pubblici nel 2016. Per l'Italia si tratta ovviamente di un verdetto molto atteso, perché, come sappiamo, nella nostra legge di stabilità sono state utilizzate clausole di flessibilità di bilancio e ora la Commissione deve decidere se accettare questo impianto oppure se aprire una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Ricordiamo che la flessibilità nella nostra legge di stabilità è molto significativa e vale lo 0,8% del PIL. Che cosa accadrà? È molto probabile che la Commissione formulerà alcune raccomandazioni al nostro Paese per chiedere maggiore impegno nell'attuazione delle riforme, ma nessuno si aspetta l'apertura di una procedura di infrazione. Come sappiamo, le difficoltà maggiori riguardano il nostro debito pubblico, anche a causa di previsioni divergenti tra il nostro governo, che stima il debito in calo di qualche punto percentuale già nel 2016, e la Commissione europea, che vede invece la riduzione solo nel 2017. Su queste divergenze si giocherà anche gran parte della partita nei prossimi giorni. Non è un caso che il ministro dell'economia Padovan abbia inviato una lettera alla Commissione in cui illustra la situazione del debito pubblico italiano e spiega che l'Italia debba essere considerata in regola con il patto di stabilità. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ho scatenato, forse si è aperto un vaso di Pandora sui vostri sms, su WhatsApp, vabbè. Alcuni contrari a TripAdvisor, altri dicono che dal 2009 che l'ultima volta che non hanno usato internet è il 2009, altri scrivono cose abbastanza così di colore, insomma. Sto parlando a chi mi chiede: ma che cosa vuol dire far pagare la tassa di soggiorno in base alla qualità? No, guardate che succede già così: la tassa di soggiorno si paga in base alle stelle. Dopodiché il ministro ha detto: usiamo non solo le stelle, ma anche il giudizio di qualità offerto ai clienti. Secondo me, pure lì siamo un po' apprendisti stregoni. Non vorrei che, come si dice in Veneto, fosse peso il tacondo e il buso, cioè peggio la pezza che tu metti rispetto al buco. Ma restiamo su Padoan e sul debito pubblico. Ha detto l'unico modo, l'ho detto a Londra oggi durante i lavori della BERS, della Banca Europea per la Ricostruzione, ha detto l'unico modo per ridurre il debito in maniera sana è far aumentare il PIL di un paese. Ascoltiamolo in inglese. We are very confident that our budget program is fully. Siamo fiduciosi che il nostro programma di bilancio sia totalmente in linea e stia funzionando. Come rappresentante di un paese con un debito molto alto, posso dirvi che voglio che il debito scenda. Sta iniziando a diminuire e credo fortemente che il modo migliore per ridurre il debito sia crescere di più. E per crescere è necessario attuare politiche di bilancio appropriate. Buono, molto buono anche l'inglese di Padoan, tanto prima che me lo scriviate, buono come quello di Draghi, se mi posso permettere, diverso. Padoan ha passato molti anni al Fondo Monetario, poi all'OCSE, insomma. È utile, no, che un ministro dell'economia parli un buon inglese, fossero così tutti i ministri e il Presidente del Consiglio. Allora, andiamo avanti. Panama Papers, adesso parliamo di corruzione perché poi introduciamo il tema delle infrastrutture. Però Panama ha aderito insieme ad altri quattro paesi allo standard internazionale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, che quindi anche Panama restringe il suo elemento paradisiaco dal punto di vista della fuga dei capitali. È uno infatti degli strumenti chiave nella lotta all'evasione. Gli altri tre paesi sono il Libano, l'isola di Vanuatu, che non ci pensa, ma attenzione che lì pure, Nauru e il Bahrain. Mi dite per voi dov'è Nauru, che non lo so, adesso chiedo bene. Bahrain ci arrivo anch'io, anche perché c'è un gran premio. A questo punto sono 101 i paesi che hanno aderito alla convenzione OCSE anti-evasione fiscale. E poi oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate italiano, chiaramente Rossello Orlandi, ha spiegato che con la voluntary disclosure, quindi quello che permetteva di dichiarare tutto quello che avevi, metterti in regola e non passare su pene pesantissime, e che è terminata come possibilità di far entrare i capitali, pagando, perché non era lo scudo fiscale di Tremonti. La voluntary disclosure, sono rientrati da Panama 150 milioni e per quello che riguarda i corrotti, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate corrotti, abbiamo avuto casi anche recenti, il Rossello Orlandi ha detto in audizione alla Camera: noi non nascondiamo la polvere sul tappeto, questi funzionari li licenziamo. Situazioni in cui in alcuni casi rilevanti ha promesso delle cose che non erano neppure nella sua, brutto caso, insomma, veramente in tutti questi casi noi addirittura siamo una delle amministrazioni che se ci sono gli elementi di concretezze procediamo immediatamente al licenziamento, non aspettiamo l'esito della sentenza, con dei rischi anche qui, perché ci sono stati dei casi in cui poi successivamente il giudice ha ritenuto, e quindi noi abbiamo, però tutte le volte in cui gli elementi sono concreti, poi parlo chiaramente, c'è la difesa delle persone, quindi che i casi siano certi e concreti, noi interveniamo molto pesantemente, di solito con licenziamento in tronco, cioè tutti i casi di corruzione prevedono licenziamento e la costituzione di parte civile e il risarcimento del danno, quindi una storia abbastanza complicata. Ci sono dei sistemi addirittura innovativi che verranno presentati insieme all'autorità sulla corruzione in un progetto che fa loro sul whistleblowing, da cui abbiamo avuto estratto spunti molto importanti e che stranamente nell'amministrazione finanziaria, a differenza di altri, ha funzionato. Figurati se non arrivavano le battute dopo l'inglese di Padoan sull'italiano della Orlandi. Oh, lo so anch'io che va di moda al toscano in questo periodo, dai. Andiamo avanti. Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, continua, dice: attenzione, il fatto che ci sia un pagamento frazionato nella riscossione d'accertamento non è un'estorsione di Stato o un'estorsione che i miei funzionari fanno per divertimento, è una legge, e se io non la rispettassi i miei colleghi a quel punto sì potrebbero andare alla Corte dei Conti. Lo dico perché credo che voi lo sappiate, quindi sia inutile ripetere questo, ma lo devo dire con calma. Il fatto che ci sia un pagamento frazionato nella riscossione da accertamento non è un'estorsione di Stato o un'estorsione che i miei funzionari fanno per divertimento. È una legge e se io non la rispettassi i miei colleghi sì vanno alla Corte dei Conti di tutto. Quindi, Stato può decidere di eliminare la riscossione frazionata, con dei rischi sulla riscossione italiana, ma questo è un problema che il Parlamento può decidere. Noi applichiamo la legge, non ci inventiamo nessuna legge e gli elementi di concretezza che stanno nelle leggi sono a disposizione di tutti i parlamentari. Allora, sorrido perché c'è un ascoltatore, io capisco criticarmi per qualunque cosa. Barisoni, ripassi la geografia, lei non sa neanche dov'è Nauru e Vanuatu. No, guardi, che io ho detto che non sapevo, l'ho ammesso. Nauru, uno dei quattro paradisi fiscali assieme a Panama, al Libano, a Vanuatu e al Bahrain, che oggi hanno aderito alle clausole dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Vanuatu lo sapevo che era in Oceania, quindi la parte polinesiana. Abbiamo scoperto orora che anche Nauru è in Oceania, in Micronesia per la precisione. Ok, perché, scusatemi se mi sono sfuggiti gli atolli, non sono pratico di paradisi fiscali e neanche di atolli evidentemente. Allora, a proposito di frodi fiscali, oggi i militari della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito questa mattina un centinaio di perquisizioni nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano e Varese. Le ha disposte la Procura di Brescia nell'ambito delle indagini di frodi fiscali, 69 le persone già denunciate. per le ipotesi di reato di truffa aggravata, impiego di denaro, di beni di provenienza illecita, dichiarazioni infedeli, omesse dichiarazioni, indebite compensazioni. Insomma, la frode complessivamente ammonta a 70 milioni di euro. E si è scoperta una vera e propria organizzazione che era impegnata nella gestione fraudolenta di numerose aziende, soprattutto del settore dell'edilizia. E dopo il merito della pubblicità parleremo anche del nuovo codice degli appalti con il ministro alle infrastrutture, e quindi mi riferisco ai trasporti, Graziano Del Rio. Andiamo però in pausa, meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo commenteremo, avremo una lunga pagina di borsa, non tanto per il calo complessivo dell'indice -1,32%, ma per lo sprofondo in cui sono finiti alcuni titoli bancari, a partire dal Banco Popolare -9% e la Pop Milano -6,40%. Prima però, come annunciato, vorrei parlare di infrastrutture inteso come piano infrastrutturale e fare anche un bilancio. Sì, parliamo di infrastrutture perché se ne sta parlando anche in questi minuti a un convegno importante dove ci sono, oltre al responsabile italiano di Enel Carlo Tamburi e il presidente del consiglio di gestione di Condotte Acque Duccio Astaldi, è un convegno organizzato da Key to People e Boston Consulting, ma soprattutto è previsto l'intervento del ministro alle infrastrutture e trasporti Graziano Del Rio, che è in collegamento con noi, e ne approfittiamo per fare anche il punto su un insieme di piani e iniziative prese dal governo per capire lo stato dell'arte. Innanzitutto buonasera a Graziano Del Rio, ministro Infrastrutture e Trasporti. Ministro. Buonasera a voi, buonasera. Allora, voi lo scorso, parto da lontano apparentemente, ma insomma lo scorso luglio, quindi quasi un anno fa, 10 mesi fa, sì, avete approvato il piano nazionale della logistica, quello che deve riunire porti, aeroporti, interporti, strade, ferrovie, con l'obiettivo di rendere più integrata. Sappiamo che ci sono grossi problemi ancora nell'area portuale, in alcuni casi la logistica integrata vuol dire che il cargo deve avere un dragaggio tale per approdare in certi porti, penso a Civitavecchia e Genova, i due primi che mi vengono in mente, e poi da lì avere un sistema integrato di quello che si chiama retroporto, dove caricare, lo dico in maniera un po' semplicistica, i cargo sui treni, i container, scusatemi, sui treni, e oppure via gomma. Su questo nel passato, e poi c'è tutto il tema anche aeroportuale, perché sappiamo che ci fu un piano che restò lettera morta di ridefinizione degli obiettivi aeroportuali. Ecco, su questo il vostro piano era molto ambizioso, vorrei capire a che punto siamo però, perché ogni tanto riceviamo anche così, non dico critiche, ma lamentele dalle varie autorità aeroportuali. Sta procedendo la logica, diciamo, cosiddetta di sinergia, di integrazione e non di sovrapposizione? Ma sì, direi di sì, nel senso che la strategia per la logistica aveva diversi obiettivi e diverse azioni. Il primo tema era che in Italia è tutto complicato perché chi decide ha una governance complicata, no? Quindi per esempio la portualità ha comitati portuali con 21 persone all'interno, dove invece che agire come un'azienda, come avviene in Olanda o in Francia o in Spagna, c'era una specie di consultazione permanente tra interessi diversi ed è difficile fare progetti strategici. Quindi c'era un tema di semplificazione della governance, renderla efficace, di semplificazione delle procedure. Per esempio uno dei temi di competitività, che dà competitività ai porti italiani, è il tema di poter fare i dragaggi in tempi adeguati, e questo l'abbiamo risolto, quindi l'abbiamo risolto con una legge che abbiamo costruito di semplificazione estrema, e quindi oggi dragare diventerà di nuovo un fatto normale, naturale, come in tutti i porti europei. Poi c'era il tema di dare ai porti una integrazione con gli altri sistemi, il sistema del ferro, il sistema degli interporti. In Italia ci sono più di 20 interporti, ma che funzionano davvero sono purtroppo 4 o 5. Alcuni non hanno collegamento ferroviario, altri non fanno in realtà i retroporti, ma fanno tutt'altro. E quindi per dare competitività al sistema bisognava mettere in collegamento queste varie realtà, ed è quello che stiamo facendo, mettendoli intorno a un tavolo. E poi bisognava anche migliorare da un punto di vista di alcune procedure. L'obiettivo era quello di semplificare i 23 provvedimenti amministrativi, di concentrarli in un unico sportello, e l'abbiamo fatto, e soprattutto di evitare che una merce ci impiegasse 17 giorni per arrivare da Hong Kong ai nostri porti e poi ce ne impiegassi altri 13 per uscire dal porto, perché questo era quello che accadeva. Però mi scusi, chiarisco agli ascoltatori, il dragaggio dei porti serve anche perché la stazza delle navi, visto che si sta raddoppiando il canale di Panama, la stazza più grande esistente prima era il Panamax, se non ricordo male, 294 metri di lunghezza massima per un 32 metri di larghezza. Adesso stanno lavorando con le Super Panamax. E quindi, voglio dire, per far entrare navi del genere devi dragare il fondale. Sì, l'altra cosa importante da dire agli ascoltatori è che purtroppo noi abbiamo delle merci che, invece che sbarcare nei porti italiani per raggiungere il nord-ovest, abbiamo delle merci che vanno a Rotterdam e vengono giù con le ferrovie olandesi, tedesche e svizzere in Lombardia. Cioè, è ridicolo. Se fanno 5 giorni di navigazione in più, perché? Perché è più veloce il trasporto ferroviario. Perché è più veloce il lavoro ferroviario, ma anche perché ottenevano lo sdoganamento in tempi rapidissimi. Ecco, oggi, su questo oggi abbiamo fatto davvero un passo avanti enorme con l'Agenzia delle Dogane, perché abbiamo veramente fatto in modo di avere lo sdoganamento in mare in più di 13 porti italiani, mentre prima era uno o due che sperimentava questa cosa, e abbiamo sdoganato 3.500 navi questo anno e mezzo in mare. Quindi questo vuol dire che ci sono dei corridoi veloci. E questo è molto apprezzato a livello internazionale, anche gli ultimi incontri tra gli operatori a livello internazionale è stato molto apprezzato questo fatto che l'Italia finalmente fa sdoganamento. Sì, lì il plauso va anche al direttore dell'Agenzia delle Dogane. Assolutamente, no? Assolutamente. Poi insieme a loro abbiamo fatto dei fast corridors, che vuol dire semplicemente corridoi veloci, dove la merce all'IKEA di Piacenza oggi arriva la merce in tempi molto più rapidi rispetto a prima, perché abbiamo fatto una serie di semplificazioni che consentono alla merce di andare direttamente là appena sbarcata. Ministro, chiariamo quest'ultimo punto, poi vorrei passare al codice degli appalti. Lei diceva, questo vale per i porti, poi vorrei capire anche sugli aeroporti. Bisogna fare delle scelte, perché sennò avevamo una duplicazione di luoghi spesso non efficienti. I quattro porti che stanno facendo questo lavoro sono Civitavecchia, Genova, Savona e? No, sono più di 13 porti che stanno già facendo. No, parlavo del dragaggio, la capacità di avere un sistema così integrato. Lei citava quattro porti pronti in questo momento, o i porti su cui puntare, diciamo, nella logica del piano? Certamente noi abbiamo da puntare sul fare il dragaggio a Napoli. Napoli ha grandissime richieste, è un grande hub portuale che però ha perso traffici negli anni scorsi perché non aveva fatto i dragaggi. E quelli invece più avanti, ripeto, Civitavecchia... E anche Taranto, che pure è un hub importante, sta lavorando. Quindi gli altri stanno facendoli e la questione è assolutamente in fase di risoluzione, anche grazie a queste semplificazioni. Insomma, quindi, sugli aeroporti invece? Sugli aeroporti noi abbiamo fatto un piano degli aeroporti, in cui abbiamo selezionato gli aeroporti hub, diciamo, intercontinentali su cui puntare, che sono ovviamente Venezia, Roma e il sistema milanese, diciamo. Stiamo promuovendo la fusione tra gli aeroporti in maniera da dare massa critica maggiore, perché oggi il traffico aeroportuale è previsto in crescita nei prossimi anni e dobbiamo attrezzarci con servizi integrati, diciamo così, e quindi stiamo aiutando e spingendo sul tema delle sinergie anche tra gli aeroporti di Bergamo e quelli di SEA, cioè di Milano, e anche è stata fatta la roba di Firenze e Pisa. Catania ha avviato un percorso, insomma, di quotazione. In generale cerchiamo di introdurre più managerialità nella gestione degli aeroporti, perché c'è una grande richiesta, ci sono traffici in crescita e per noi gli aeroporti sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo del turismo, che può diventare la principale industria italiana insieme al manifatturiero. E ne parleremo dopo anche di turismo. Ultima domanda riguarda il codice degli appalti. Allora, voi il 3 marzo come governo avete approvato la riforma del codice degli appalti. Le novità principali le riassumo io in 3 battute. Un ruolo centrale attribuito all'ANAC, l'autorità anticorruzione, quella di Cantone. Cantone è dovunque ormai, con più compiti e nuove risorse. L'addio al meccanismo del massimo ribasso, che creava varie distorsioni, perché poi sappiamo che il massimo ribasso non veniva rispettato, le varianti in corso d'opera, quindi vinceva uno con, magari con un progetto irrealistico, tagliando fuori offerte di migliore qualità, e poi tanto il costo lievitava durante la realizzazione dell'opera. Sulle opere pubbliche i privati si assumeranno anche il rischio operativo vero, nel senso che lo Stato non è più obbligato a ripianare eventuali perdite, e poi l'adozione del BIM, cioè Building Information Modeling, verranno condivise le informazioni delle opere infrastrutturali. La cosa più importante, visto che noi abbiamo una rubrica proprio sulle grandi incompiute ogni venerdì, gli sprechi della pubblica amministrazione, molti riguardano anche opere infrastrutturali, penso alla galleria che abbiamo raccontato la settimana scorsa, che dovrebbe collegare l'Adriatico con il Tirreno ancora in alto mare, ma in Umbria. La parte che riguarda il rischio operativo dei privati, perché non giriamoci attorno, è quello il punto forse focale. Se io non ho più il massimo ribasso, posso far vincere una offerta che era anche più alta come costo per l'ente pubblico, però poi devo essere, o posso anche scegliere un'offerta solo da un punto di vista economico. Cosa vuol dire il rischio operativo vero? Perché se anche io scelgo un'offerta che non è la più bassa, ma poi comunque in corso d'opera lievitano i costi, le varianti varie, e allora ho risolto poco. No, beh, il fatto, noi facciamo mettere un punto centrale del codice appalti è la qualità del progetto e la qualità degli operatori, cioè gli operatori vengono selezionati, diciamo così, e quindi vengono in un qualche modo certificati, la qualità delle stazioni appaltanti, di quelli che fanno la gara, e la qualità del progetto. Quando tu hai un progetto definito, perché ci sono le varianti così tante in Italia? Perché si manda una gara a progetti che sono progetti preliminari, che non hanno fatto tutte le indagini, non hanno fatto tutti i rilievi. Quindi la qualità del progetto è la chiave, come in tutti i paesi europei, per non avere poi le varianti, per non avere le richieste appunto da parte delle ditte e così via. E quindi mettendo a gara un progetto esecutivo questo tema si riduce molto. Il secondo elemento però molto importante è che il rischio dei privati per noi vuol dire soprattutto nelle concessioni. Cioè noi siamo partiti da un vecchio codice che aveva 660 articoli, più erano esclusi dal vecchio codice tutte le questioni relative alle concessioni autostradali per esempio, tanto per intenderci. Siamo arrivati a un codice di 217 articoli che include tutta la regolazione, incluso il rapporto tra pubblico e privato nelle concessioni. Cioè noi siamo favorevoli agli investimenti privati, ai capitali privati, a concedere beni pubblici in gestione ai privati, ma bisogna che ognuno faccia bene il suo mestiere. Il pubblico non deve cambiare le regole, non deve cambiare, diciamo così, i contratti, e il privato però deve assumersi del rischio. Non è pensabile che se tu hai preso in concessione un'autostrada e dopo 10 anni il traffico cala lo fai pagare allo Stato. Perché questo è impensabile, quindi chiedi contributi. Sì, anche sul fronte degli investimenti autostradali sappiamo che c'è molta polemica sui pedaggi, l'aumento dei pedaggi e gli investimenti mancati. Esattamente, non puoi dire che aumenterai i pedaggi perché fai questi investimenti e poi dopo non farli, quindi c'è un tema di... Ma quindi questo vuol dire che, per concludere, Ministro, che controllerete di più i concessionari a partire dal più grosso, Autostrade per l'Italia, e poi tutti gli altri? Sì, vuol dire che cerchiamo di essere... diciamo di fare meglio il nostro mestiere con delle regole più chiare in partenza ed evitare di dover inseguire poi delle soluzioni come abbiamo inseguito purtroppo in tutti questi anni. Abbiamo inseguito soluzioni e non abbiamo costruito molte volte le opere necessarie. Mi scusi, un'ultima domanda rapidissimo perché ce la chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666. Ma se io fossi un costruttore, vinco la gara per realizzare, che ne so, una bretella, una tangenziale, quello che è, un ponte, e la vinco anche a un prezzo buono, nel senso il caso più virtuoso, massimo ribasso abbastanza significativo. Poi nel corso della costruzione i costi aumentano perché ci sono delle varianti. Lì come fate a stabilire che non stia facendo il furbo io, nel senso di aver offerto talmente poco che poi era inevitabile l'esplosione dei costi? Perché ci sono dei limiti, diciamo così, a questa possibilità di fare varianti, dei limiti quantitativi, e perché il rapporto deve essere certificato, la variante deve essere verificata da noi che vigiliamo. Quindi quando io metto a gara il progetto esecutivo ho anche meno rischi anche per l'impresa. Certo, rispetto alla parte teorica precedente. Esatto. Grazie, e grazie al ministro appunto Graziano Del Rio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Buonasera. Oh, andiamo sul traffico e poi più che la borsa l'analisi dei no, mi fanno impazzire alcuni ascoltatori, però questa la voglio dire, perché vorrebbero che comunque qualunque tipo di ministro fosse dovesse aggredirlo su che cosa non so bene, perché aggredire Del Rio su qualcosa non ce l'ho. Avessi un altro ministro per le mani potrei fare delle domande anche più critiche. Abbiamo fatto il punto su un piano lanciato a luglio sul codice degli appalti con qualche perplessità, cioè perché se arriva uno aggredisce il ministro, a parte che aggredire non mi piace come termine, ma diciamo fa domande anche scomode quando ci sono elementi anche scomodi. Scusatemi, ma io sul fronte dei porti, interporti, aeroporti, retroporti e codice degli appalti altre domande scomode non ne avevo. Poi mi scrive uno: ma se le scrive lei le domande da fare o gliele danno già fatte? No, me le dà lei già fatte, cosa le devo dire? No. Ah, tutti questi leoni via internet che poi sono agnelli quando li incontri. Traffico. Focus Economia. Eccolo lì, servo del potere. Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti. Quindi ogni volta che intervisto un ministro devo mandarlo a quel paese praticamente per non essere servo del potere. Io poi vorrei sapere questi qua come si comportano con i loro capi e capetti, perché sarei curioso di vedere se alzano la voce, dicono no in riunione, sbattono i fogli, dicono yes yes, poi quando devono scrivere danno a me del servo del potere. Va bene, va bene, andiamo avanti. Moria Longo, bella giornata la tua, nel senso che devi aiutarci a capire che cosa di nuovo ha buttato giù tutti i titoli bancari in primo luogo. La borsa oggi si chiama banche, il resto diciamo è marginale. Moncler guadagna il 4,60%, Leonardo Finmeccanica il 3,70%, Prismian il 2% e Mediobanca lo 0,70%. Dammi il titolo e poi dopo il GR24 parliamo del resto. Il titolo è il tormentone solito, crediti in sofferenza. Questa volta l'imputato è il Banco Popolare, che gli era dato i conti e quello ha tirato giù tutto il settore oggi. Quindi crediti in sofferenza e il rischio di un nuovo aumento di capitale, questo su cui si preoccupa. E il rischio di maggiori svalutazioni su crediti in sofferenza. Ieri il Banco Popolare ha annunciato un aumento degli accantonamenti, quindi delle perdite a fronte dei crediti in sofferenza, perdite richieste dalla BCE. Il mercato teme che la stessa cura da cavallo sia applicata a tutte le banche. Allora, parliamo dopo di cura da cavallo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora concludiamo l'approfondimento, o meglio continuiamo a cercare di capire cosa è successo oggi in borsa. Ripeto, Banco Popolare meno 9%, Pop Milano meno 6,40%, Unicredit meno 3,70%, poi è andata male anche Mediaset meno 4,90%. Abbiamo già citato i conti di Premium che non vanno bene, i bilanci usciti su Premium 56 milioni di perdite nel primo trimestre e prospettive incerte sulla pubblicità nella seconda parte dell'anno. Positivi invece i conti di Moncler, i ricavi sono saliti del 18% e la borsa premia il titolo. Telecom leggermente in ribasso, devo dire che oggi sono tanti titoli in ribasso. Per quello che riguarda alcune indiscrezioni vedrebbero in vantaggio sulla proposta di acquisto di Metroweb, Enel, rispetto a Telecom. Va detto che per quello che riguarda Enel il calo dello 0,35%, e vorrei riuscire a dare anche Telecom se la trovassi in questo momento. Sei impallato il sistema. Eccola qua, meno 2,36%. Moria Longo, però tornando al discorso delle banche popolari, il Banco Popolare ha deluso con i conti di ieri. Perdite di 314 milioni di euro e a fronte di un utile netto atteso di 41 milioni di euro. E già questo giustifica. Però tu facevi un altro ragionamento. Il timore vero è anche sulle prossime banche, perché il Banco Popolare, su indicazione, che vuol dire obbligo, della Banca Centrale Europea, su richiesta della Banca Centrale Europea, ha dovuto mettere più soldi da parte per far fronte alle eventuali agli eventuali crediti che non potessero tornare indietro, cioè non performing loans, come si chiama in inglese, e li ha triplicati, 684 milioni di soldi messi da parte. Qual è il ragionamento che il mercato fa sulle altre banche? Allora, inizio dal Banco Popolare. Il Banco Popolare, come tutti sanno, sta facendo una fusione con la Banca Popolare di Milano. La BCE, che è l'organismo di vigilanza, ci tiene che questo nuovo gruppo, che sarà il terzo gruppo bancario italiano, sia solido, abbia dei numeri di bilancio che siano paragonabili alle migliori banche e non alle banche medie. E quindi sta imponendo al Banco Popolare, da un lato gli ha imposto un aumento di capitale abbastanza grosso, che non era previsto, e dall'altro gli sta imponendo di aumentare gli accantonamenti, quindi mettere soldi da parte a fronte delle possibili perdite derivanti appunto dai crediti in sofferenza. Quindi questo è il motivo per cui il Banco Popolare ha chiuso con questa perdita, tu dicevi, di 314 milioni, perché è stato obbligato ad aumentare i soldi, a mettere a perdita una parte di soldi proprio per aumentare la copertura sui crediti deteriorati. Allora, i ragionamenti possibili sono due. Il primo, che è quello che fa la BCE, la BCE continua a dire che si sta comportando col Banco Popolare in una maniera anomala, diversa, proprio perché dal Banco Popolare con la Banca Popolare di Milano nascerà il terzo gruppo bancario italiano, quindi vuole che questo gruppo sia molto più solido, abbia numeri molto alti, molto buoni. Quindi non è detto che l'accanimento, diciamo, che la cura da cavallo che sta facendo fare al Banco Popolare lo farà fare ad altre banche. Il problema è che il mercato non si fida più tanto, non capisce bene come leggere questa imposizione della BCE. Interrompo un secondo, anche perché le altre banche popolari, anche loro, andranno sotto fusione, se non abbiamo capito male il film che ci stanno raccontando da un anno. Per cui lo stesso ragionamento che fa la BCE, la Banca Centrale Europea, in vista della fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano, vuole che sia una fusione, diciamo, sana, e quindi dice: attento bene, prima di fonderti, tu Banco Popolare, che era quello che aveva più sofferenze rispetto alla Milano in rapporto al patrimonio, devi mettere più soldi da parte, così la fusione sarà più sana. È come un po' una dote in caso di matrimonio, e il timore è che il ragionamento venga fatto anche quando vi siano altri annunci di fusione. Infatti oggi tra i peggiori titoli non ho citato, ma ci sono anche il Banco di Desio e Brianza, importante, ma sul risparmio non convertibili non è così importante, però il Credito Valtellinese meno 7,40% e via così. Prego, Moria. Sì, appunto, dato che le banche italiane hanno tanti crediti in sofferenza, ne hanno molti di più rispetto alla media europea, ma molti molti di più, allora il timore del mercato è: ma se le autorità di vigilanza continuano a chiedere ulteriori svalutazioni a tutte le banche avranno enormi perdite, quindi avranno necessità magari di aumenti di capitale, e questo fa paura al mercato. Quindi questo è il tema di oggi sul mercato. Ma c'è anche un altro tema che è italiano, ma in realtà questo è europeo, evidenziato dagli stessi dati della Banca Popolare di Milano, che ha ridotto il margine di interesse del 9%. Il margine di interesse è il guadagno tradizionale delle banche dall'erogazione del credito. Ebbene, con i tassi a zero, tutte le banche europee stanno riducendo moltissimo gli utili dall'attività tradizionale di erogazione del credito, si stanno erodendo i loro utili, mentre i costi restano alti. Quindi un po' tutte le banche europee, italiane incluse, hanno una problematicità proprio di redditività. Quindi questo problema comune della redditività si somma a un problema italiano dei crediti in sofferenza, si somma in Germania a un problema tedesco di crediti, di titoli tossici nei bilanci derivati. Quindi in ogni paese poi si somma a problematicità nazionali, ma in realtà c'è un problema europeo comune a tutti, nel fatto che in un mondo di tassi bassissimi a zero, le banche non hanno più ritorni, non hanno più guadagno, ne hanno molto pochi dall'attività tradizionale di erogazione del credito. E questo è il motivo che preoccupa molto le banche tedesche in primo luogo, e che fa fare lobby alle banche tedesche sui suoi ministri, o meglio su Schäuble e Weidmann anche, che è il governatore della Bundesbank, quando dicono: basta con questa politica dei tassi bassi di Draghi, non sta funzionando. In realtà loro parlano più per difendere le banche tedesche, a mio avviso, che per un interesse comune europeo. è un ragionamento macroeconomico, perché sappiamo che le banche tedesche, come tutte le banche, lo ricordavi bene, beh, insomma, più i tassi di interesse sono alti, più se i tassi sono al 2% e tu presti soldi al 7, hai il 5% di differenza. Dico cifre volutamente, diciamo, simboliche, perché dovrei essere anche più pesante. Però se i tassi vanno a zero, tu non riesci a proporre un investimento al 5%, cioè la differenza di prima, perché si appiattisce tutta, diciamo, la curva del margine che tu puoi fare come banca, mentre i costi dei servizi bancari, degli sportelli, restano uguali. Quindi sostanzialmente tu guadagni di meno, e questo si vede dai primi bilanci dei trimestrali che abbiamo bancari, e varrà per tutta Europa. Grazie Moria Longo, devo dare solo i migliori e i peggiori, i migliori non li ho ancora dati. Stefano il più 14,36% e Astaldi più 8,60%, bene Brembo che ha presentato i conti, più 7,90%, e City Biopharma più 5%. E adesso, datemi il tempo di lanciare il tema, no? E adesso lo rifacciamo questo, per cortesia regia, e adesso cambiamo tema e ci occupiamo del turismo, a partire dalla dichiarazione del ministro Franceschini: usiamo anche i siti internet, il web, il giudizio dei clienti sul web per applicare la tassa di soggiorno. Una stella, tre stelle, cinque stelle, sono un sistema datato. Per superare Calboni, Fantozzi scese al più lussuoso albergo di Capri, anche perché era l'unico aperto d'inverno. Beh, io mi siedo un attimo, va di lei al burro. Agli ordini, signorina. Buongiorno, scusi, hanno per caso delle singole per due? Abbiamo solo appartamenti, signore. Ma quanto costano? 60.000. Solo? Fantozzi pensò 60.000 al mese. Siamo in bassa stagione, signore. La suite sul mare viene sulle 80.000, signore. Signore, se vuole qualcosa di meglio, abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Io te lo prendo! L'ho fissato! Va bene. È mio, Non lo canta nessuno, Adesso le do subito, ecco qua, i documenti che... questo è il passaporto della signora, sì. della signorina, e questa è la mia tessera della bocciofi. Bene. Adesso pago, le do subito. La prego, dopo, l'accompagno. Si paga dopo. Prego. Vabbè, non potevamo non fare ascoltare, erano 100.000 lire, non al mese come pensava Fantozzi, ma al giorno, altri tempi. Grazie al presidente Federturismo Confindustria Renzo Iorio, buonasera. Buonasera. Insomma, il tema delle stelle, dell'offerta e di TripAdvisor, adesso ci arriviamo. Grazie anche al presidente del gruppo Uvet e presidente Confturismo, Luca Patanè. Buonasera, Patanè. Buonasera. E grazie anche a una voce che tutti voi conoscete, perché è il nostro gastronauta, ma non si occupa solo di cibo, anche di ristoranti ed alberghi. Davide Paolini, buonasera anche a te. Buonasera ma soprattutto a tutti. Tu sei l'anti-Satana, o meglio, sei il Satana di TripAdvisor, nel senso che tu odi, non adesso, odi è un po' eccessivo, ma insomma, rifuggi qualunque utilizzo della rete per fidarsi del giudizio su ristoranti e alberghi. Dimmi subito una cosa, Davide, che poi vado sul traffico e sento anche Patanè e Iorio. La proposta, no, aspetta, fammi fare la domanda. Ma la proposta di Franceschini, che ha detto oggi nel corso di un convegno di Airbnb a Roma, serve una revisione della tassa di soggiorno, che deve uscire dal riferimento alle stelle degli alberghi, che sono un sistema datato e superato. Ormai valgono molto di più i giudizi dei clienti sul web. Bisogna prevedere che sia una percentuale del costo della camera. Questo garantisce maggiore equità e trasparenza e uguaglianza tra le regioni. Ti convince o no? No, pessima idea, specialmente di ricorrere al web. Sicuramente c'è da ristrutturare le stelle, perché degli alberghi, perché ogni regione fa per conto suo, e un 3 stelle in una regione non corrisponde a un 3 stelle in un'altra regione. Ecco, forse il Ministero dovrebbe cominciare da questo, a unificare i metri di giudizio per dare le stelle agli alberghi. Sui ristoranti non ne parliamo, non si può. In che senso? No, i ristoranti non è prevista tassa di soggiorno, a meno che uno non ci fermi a dormire, però insomma può capitare, appunto, dipende dalla cena. Però. TripAdvisor è una truffa continua, basta parlare con 20 ristoratori, dietro ci sono ricatti, ci sono lettere fasulle, ci sono recensioni fasulle anche tra gli alberghi. Ci sono molti albergatori che mandano recensioni fasulle ad altri alberghi. Quindi io credo che veramente sia una pessima idea questa. Allora, il tuo giudizio mi sembra abbastanza chiaro. Dopo il traffico vorrei sentire anche quello di Renzo Iorio, di Luca Patanè, 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, Renzo Iorio, la convince la proposta di Franceschini, al di là del giudizio che Davide Paolini dà, diciamo, dell'utilizzo del web per capire la qualità, in questo caso parliamo soprattutto esclusivamente di alberghi? Ma allora, devo dire, non vorrei apparire riguardoso verso il Ministro, ma mi sembra che la sua dichiarazione mescoli due temi che non necessariamente vanno molto insieme. Uno è il tema della tassa di soggiorno, per la quale assolutamente noi da tempo sosteniamo che non può essere diciamo concepita come lo è oggi, ma dovrebbe essere variata la base imponibile, quindi qui siamo d'accordo col Ministro che dovrebbe essere applicata sulla base del fatturato e del prezzo, dovrebbe essere applicata in tutto il territorio nazionale, non a macchia di leopardo come oggi, e soprattutto dovrebbe toccare come base imponibile non solamente alcune categorie, quindi gli alberghi essenzialmente, ma essere allargata anche alle varie forme di ospitalità e anche ai pubblici esercizi in generale, cioè alle imprese turistiche nel loro complesso. Quindi su questa riforma assolutamente siamo d'accordo. Per quanto riguarda invece il tema stelle web, allora non sono così drastico come Paolini, nel senso che al di là di una certa soglia di numero di diciamo commenti, c'è di fatto una certa veridicità, ecco, quindi è il modello statistico che insomma il campione diventa anche rappresentativo. Però non bisogna confondere tra lo standard di servizio e quindi quello che le stelle dovrebbero individuare e la qualità all'interno di quello standard. È ovvio che io posso trovare bellissimo un agriturismo nel quale mi attendevo di essere accolto in modo spartano e scarsamente molto deludente un 5 stelle nel quale mi aspettavo di più, ma se io guardo solamente bello e fine, è chiaro, c'è anche un evidentemente relativo. Che non c'è questo tema, ecco. Allora, però Patanè, mi scusi, io da almeno 10 anni che sento parlare di riforma delle stelle che sono su base regionale, per cui 3 stelle a Bolzano o in Alto Adige, è inutile che ci giriamo attorno, non valgono 3 stelle di altre regioni italiane, purtroppo delle volte anche qui il sud non eccelle. Ma non solo, uno può andare anche a Venezia o a Firenze, cioè prendi le 3 stelle di una città turistica abituata ad avere grossi flussi, quindi a fregarsene di più della qualità, lo dico con massimo rispetto, ma sappiamo che è così, e 3 stelle di località anche al sud, anche in Basilicata, anche in Puglia, anche in Sicilia, che invece lavorano più sull'intercettare flussi non scontati e noti una qualità diversissima. Però siamo ancora a parlarne, Patanè. Non è che siete voi... come operatori, alla fin fine i vostri associati, quindi Federalberghi o gli associati di Federturismo Confindustria, che non vogliono veramente un giudizio uguale per tutti in tutte le regioni? Beh, diciamo che quello che dici è assolutamente condivisibile. Io, secondo me, ci deve essere un criterio univoco. Stiamo parlando su un progetto di ristrutturazione delle stelle alberghiere già da tempo, è tempo che se ne parla, è coniugato anche con progetti europei, perché la realtà italiana si sposa con una realtà europea poi similare, con qualche differenziazione, ma è similare. Io penso che sia obsoleto, dal mio punto di vista personale, la classificazione in stelle, anche perché io negli alberghi da 1 a 2 stelle molti anni che non ci vado e forse non ci sono mai andato in vita mia quando ero studente, quindi ritengo che è obsoleto questa tipologia di classificazione, però diciamo certifica da un certo punto di vista certi standard, degli standard minimi che ci devono essere, e allora se non sono le stelle perché sono obsolete le stelle deve essere qualcos'altro, però non deve essere soltanto il giudizio dei consumatori. Perché come nei ristoranti, secondo me, finisce che sennò va sempre sui soliti noti la recensione e non va sulla scoperta. Quindi il discorso degli alberghi deve avere delle garanzie di minima che devono tutelare, secondo me, il consumatore, e giustamente, come dice Iorio, sono d'accordo che deve però andare a colpire sempre il discorso della tassa di soggiorno, anche le altre forme di ospitalità, cioè, che sennò la concorrenza che vi fanno esatto, Airbnb creano illegalità, eccetera, eccetera, e poi ogni volta pompando Airbnb, pompando tutte queste società anche di rating, perché in realtà sono anche società di rating in un certo senso, rischiamo di non valorizzare, poi di non riuscire noi come paese a dare una valorizzazione a quelle che sono anche le nostre capacità di ospitalità e di classificazione. Quindi non dobbiamo farci soffiare dagli altri questa nostra capacità, quindi dobbiamo esprimerla sia come categoria da una parte, dove c'è un impegno, ma in condivisione con la politica e con tutti. Allora, vedo un messaggio particolarmente interessante, perché dice un ascoltatore: l'Europa, a cui piace normare anche le dimensioni delle patate intese come vegetali e delle vongole, ci siamo occupati anche noi della dimensione delle vongole, non ha ancora uniformato gli standard degli alberghi. Questo è un tema vero, perché a mio avviso, invece che pensare solo all'Italia, potremmo avere delle stelle, o chiamatele come volete, a livello europeo. Cioè, se abbiamo veramente norme europee su tutto, su qualunque cosa, facciamole anche sugli alberghi. Però vorrei chiudere dove abbiamo iniziato, con Davide Paolini. Davide, alcuni dicono, vabbè, i critici sono contrari al web perché gli porta via il lavoro, cioè TripAdvisor, poi non servono più le guide che voi scrivete. Altri dicono che si sono trovati benissimo su TripAdvisor, ma al di là del tuo giudizio personale sul web, perché pensi che non si riesca a uniformare il giudizio sugli alberghi? Non è un dettaglio, perché poi è chiaro che meno è omogeneo questo giudizio, più lasci sprateria e spazio al web, alla rete. Scusami, io tra l'altro non faccio più una guida da non so da quanti anni. Questo è vero. No, non mi metto più tra la categoria dei critici, quindi sono al di fuori. No, io ritengo, l'ho detto prima, secondo me il problema delle stelle sugli alberghi è fuori del secolo, nel senso che, come tu hai detto, come io avevo detto, ci sono dei 3 stelle in alcune parti d'Italia che valgono 5 stelle di altre parti d'Italia. Ma perché? Ma perché sono le regioni singolarmente che danno le stelle. Allora bisognerebbe trovare un organismo al di sopra delle regioni, e quindi non influenzato da politiche locali o di vantaggi locali, che giudicasse gli alberghi con una serie di parametri completamente moderni e innovativi. Ad esempio, avere internet è un parametro moderno. Sono sicuro che nella nomenclatura di oggi, nelle classificazioni di oggi, non viene preso in considerazione, quindi bisogna rimodernare a seconda della modernità. Se no abbiamo degli alberghi straordinari in Alto Adige che sono 3 stelle e che vanno e faccio notare per concludere, nel ringraziare te e il presidente Iorio e il presidente Patanè, faccio notare che molti ci stanno scrivendo anche su alberghi, cito Parigi perché è un caso classico, ma vale anche per Londra, in cui 4 stelle, cioè, hanno bagni che non sarebbero accettabili. Non è solo un problema tra le varie regioni italiane, c'è anche un problema a livello europeo. Comunque, detto questo, qualcuno dice che la proposta di Franceschini per chiudere dove avevamo iniziato era come il giudizio di Fantozzi sulla corazzata Potemkin. Grazie a tutti e tre, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.